Data Breach, meazza, matai la su. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Effettivamente, cara Deborah. Dimmi, buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Stavo cercando di capire come mai stamattina avessimo scelto Vasco Rossi. Il comandante. Che peraltro si è... Esatto, che ha molto commentato anche questa fase di isolamento sociale. Insomma, è stato un personaggio molto ascoltato nei suoi commenti rispetto a questa straordinaria situazione che stiamo vivendo. Ma devi andare a qualche concerto? No, in realtà sai che c'è stato sostanzialmente l'annuncio di Asso Musica che ha detto che per quest'estate si fermano i grandi eventi live. E quindi chi riempie gli stadi come il comandante Vasco, ohimè, non potrà esibirsi. Sono ammessi soltanto dal 15 giugno, numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto, 200 persone per quelli in sala. Quindi guarda, anche noi Chapter 11 stiamo studiando queste indicazioni per vedere se, ohimè, dovremmo rinunciare a fare il nostro tour negli stadi anche quest'anno. Guarda, di là dal vetro ride sotto la mascherina anche l'indispensabile Carmelo Lauricella di fronte a questa stupidaggine che ho detto. Va bene, ma... no, comunque invece la cosa è seria, perché poi si è precisato, sempre a Son Musica, che i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date del 2021. Infatti, quindi... ecco, diciamo che questo non è un problema che riguarda i Chapter 11, perché magari, non so se avevate già pianificato una tournée molto articolata e, come dire, i vostri fan avessero già comprato molti biglietti, ma il punto è che per i grandi concerti estivi, tipo quelli che si tengono a San Siro, generalmente le prevendite dei biglietti partono molti mesi prima e quindi c'è effettivamente da considerare che molte persone avranno ancora in mano biglietti per poter andare a vedere, che ne so, Tiziano Ferro e tutti quelli che avevano previsto di fare dei grandi concerti estivi. Segnalo, considerato tutto questo, caro Mauro, che questo è un tema affrontato anche tra i vari quesiti di Omo Covid, della nostra rubrica sul sito del Sole 24 Ore, dedicata proprio ai consumatori, contribuenti e tutte quelle persone che si stanno facendo tutte le domande possibili ed immaginabili, che hanno, come dire, un po' affollato la nostra mente in questo periodo. Ce n'è una alla sezione Tempo Libero che appunto proprio recita: avevo acquistato due biglietti per un concerto, ora annullato a causa del Covid, posso chiedere il rimborso di quanto pagato? L'avvocato Antonio Rosetta, che ci dà una mano a dare tutte le risposte, ovviamente risponde di sì, perché chi ha acquistato dei biglietti per assistere ad un concerto poi annullato ha il diritto a chiedere il rimborso mediante voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione. Chiaramente a patto che poi la prestazione ci sia, che il concerto ci sia. È molto importante fare attenzione e rispettare il termine di 30 giorni dall'evento annullato per chiedere il rimborso. Tenetevi i biglietti per fare poi questa richiesta, perché non è che la si può fare così senza un documento d'appoggio. Chiusa la parentesi, Mauro. Allora, però io vorrei chiusare comunque questa tua indicazione per invitare chi fosse interessato ad andare sul sito di Radio 24, www.radio24.it, tra le iniziative speciali, proprio in home page, proprio in prima pagina, trovate questa Omo Covid con l'H davanti, e lì potete poi cliccare per andare a leggere le varie risposte. Potete anche inviare domande, usate o la nostra casella di posta elettronica di Due di Denari, quindi Due di Denari @radio24.it, oppure anche redazione@consumerismo.it, redazione@consumerismo.it. Questo per andare a vedere appunto molte delle risposte che vengono via via arricchite giorno dopo giorno dalla sezione, per la sezione di Omo Covid. Di che parliamo oggi di bello? Allora, qua a quanto pare finalmente sta riprendendo all'insegna della normalità l'attività tra i notai ed è un tema che ha arricchito moltissimo la nostra email nelle ultime settimane, perché molte persone chiaramente hanno dovuto sospendere le compravendite della casa dei propri sogni, della seconda casa, insomma è stato un mondo che si è bloccato come tutti gli altri, ma adesso con la possibilità di spostarsi un po' di più anche nell'ambito appunto notarile, l'attività sta riprendendo con regolarità, cioè per la verità i notai hanno sempre lavorato, gli studi sono sempre stati aperti soprattutto per dare una risposta a quegli atti urgenti ed indifferibili. Il problema è che però magari qualche persona doveva completare questi atti, chiudere, siglare questi atti in una località diversa, in una regione diversa rispetto a quella di domicilio e di residenza, e quindi ciò ha chiaramente reso problematica la vita per molte persone. Adesso che gli spostamenti si sono un po' allentati, secondo te, per i milanesi che devono andare a comprare la casa in Liguria, sarà possibile farlo? Non lo so, però lo chiediamo, lo chiederemo a un esperto, come sempre, di valore mondiale. Noi non scendiamo mai al di sotto di questo target, di questo livello, e lo avremo ospite. Tornerà a trovarci Giulio Bino, che è un consigliere nazionale del notariato, già è stato ospite qui a Due di Denari. Se avete domande sul tema potete o contattare il nostro numero verde, intervenire in diretta 800 24 00 24, oppure scriverci un sms o mandarci un messaggio via WhatsApp, anche vocale, al 349 238 6666. Rogitare o non rogitare, questo è il dilemma, avrebbe detto Shakespeare. Abbiamo però anche un passaggio per verificare il BTP Italia, giusto? Perché qualche ascoltatore, ti devo dire, ci chiede come faccio a riascoltare la puntata. Il sito di Radio 24 contiene i nostri podcast, le nostre registrazioni. Cerchi sotto la sezione programmi 2 di Denari. Dico bene, Deborah? Dici benissimo, sta andando molto bene il collocamento anche questa mattina, ma io terrei ancora un po' in sospeso i nostri ascoltatori. Prima mi toglierei la pratica del giornale radio del risparmio. Volentieri. Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Cara Deborah, tu non mi vedi perché non mi segui sul Facebook, ma chi mi segue sul Facebook o dentro nello YouTube, ad esempio, sa che io ora sto mostrando in anteprima mondiale il fascicolo che domani sarà in vendita con il Sole 24 Ore, intitolato 7:30 facile, perché contiene tutte le indicazioni essenziali per una corretta compilazione del 7:30, perché Covid o non Covid, qui comunque il 7:30 bisogna farlo, bisogna presentarlo, anzi se abbiamo qualche cosa da riprendere a rimborso, perché non farlo correttamente, non occuparsene da subito. E allora domani in edicola con il Sole 24 Ore questo fascicolo 7:30 facile. Carmelo Lauricella mi guarda e mi sembra interessato all'acquisto, anche davvero? dietro di lui colgo lo sguardo molto come dire avido quasi di Claudia Schiattone, davvero incontenibile, che vuole anche lei questo fascicolo. Mi spiace, domani in edicola Claudia con il Sole 24 Ore, non è me per cattiveria. Me li immagino i loro sguardi avidi. Senti, allora, il Covid ha impattato su ogni versante economico-finanziario e naturalmente non poteva mancare l'impatto anche sui rendimenti dei fondi pensione, la pensione integrativa, i fondi pensione aperti, chiusi, e cioè tutta la previdenza complementare, che ha registrato appunto un trend abbastanza problematico nel primo trimestre di quest'anno. Ci sono stati dei rendimenti negativi sui fondi pensione al netto dei costi di gestione della fiscalità. Questo è un bilancio che ha comunicato proprio questa mattina fresco fresco la COVI, per l'autorità di vigilanza sui fondi pensione. I fondi negoziali hanno perso in termini di rendimento qualcosa come il 5,2%, un po' più marcata invece la flessione dei rendimenti dei fondi aperti, 7,5%. Per quello che riguarda invece i PIP, i piani individuali pensionistici, caratterizzati in media da una maggiore esposizione azionaria, il calo è stato di circa il 12%. A fronte appunto di questi rendimenti negativi c'è sempre da effettuare la comparazione con il TFR tenuto in azienda, la cui rivalutazione nel periodo è stata del 2%. Se però si guarda un pochino più indietro, Mauro, se facciamo un bilancio decennale, anche perché effettivamente i rendimenti di questi strumenti vanno guardati non nel lungo ma nel lunghissimo termine. Il rendimento dei fondi complementari è stato superiore a quello del TFR. Insomma, questa sbandata di inizio anno era assolutamente naturale attendersela. C'è da dire che è stata anche molto inferiore rispetto al calo dei mercati finanziari, che comunque adesso stanno riprendendosi, e sicuramente vedremo un impatto migliore nel secondo trimestre di quest'anno. Ma siccome è un tema tanto importante, io vorrei proprio organizzare con te, Mauro, se lo ritieni al più presto, una bella puntata su questo argomento, perché magari qualche ascoltatore, forse proprio quelli in procinto di andare in pensione, che magari avevano in mente prossimamente di cominciare a utilizzare la rendita dei fondi pensione, del proprio fondo pensione, forse avranno notato che i rendimenti di quest'ultima parte del loro piano pensionistico sono stati problematici, e quindi vorranno avere delle spiegazioni, e noi gliele vorremmo dare molto volentieri. Ma certamente accolgo questo invito, e anzi potremo anche cercare di vedere se qualche vertice di Covip, abbiamo dato volentieri questa notizia, ora proprio è stata appena diffusa, quindi secondo me la stiamo dando in anteprima mondiale anche questa, e possa venire a illustrarci appunto il corretto orizzonte temporale che dobbiamo tenere quando scegliamo questo tipo di strumenti, perché è ovvio che sui 3 mesi un fondo destinato alla pensione ha senso, diciamo, in modo relativo. Dobbiamo andare a guardare su prospettive più lunghe, così come non si sa bene quali saranno le prospettive per le assemblee di condominio, cara Deborah. E questo è un bel problema per la questione del bonus al 110%, sul quale ci state scrivendo non a decine ma a milioni, oserei dire. Sì, ma noi vi ringraziamo, però davvero non possiamo dirvi cose che ancora non sappiamo, perché il decreto legge cosiddetto rilancio, che potremmo anche dire decreto legge ritardo, deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Allora, finché noi non vediamo esattamente come è scritta questa norma, ci fidiamo ovviamente delle anticipazioni che stiamo dando sui giornali, che stiamo dando nei giornali radio, ma non siamo in grado di rispondere a domande puntuali sulla casistica. Quindi sappiamo che bisognerà guadagnare 2 classi nella classificazione energetica, e non sappiamo però tanti altri aspetti. Quindi appena avremo una pubblicazione, un testo stabile, faremo probabilmente almeno una puntata, ma forse più di una, sull'eco bonus al 110%. E magari così potrete discuterne forse nell'assemblea di condominio, cara Deborah. Perché dico forse? Esatto, perché qua non sappiamo quando riprenderemo a farle nella consueta modalità, quella del litigio, quella dove ci si scanna naturalmente per prendere anche la più piccola decisione, perché farlo in remoto con le piattaforme online non è mica divertente nella stessa maniera. Eh no, certo, poi comunque anche in presenza bisogna farlo a distanza, quindi se volete così scannarvi in un'assemblea condominiale, però sempre, mi raccomando, ad almeno 1 metro di distanza e con mascherina. Prego Deborah, dove hai tratto questa indicazione di difficoltà? Sul Sole 24 Ore di oggi ne scrive diffusamente Saverio Fossati insieme a Rosario Dolce: le assemblee sono riunioni per cui state tutti ad 1 metro di distanza, anche qua divieto di botte come al solito e di assembramento soprattutto, anche se il punto è che anche i più volenterosi che volessero comunque attivarsi con una riunione da remoto in realtà non hanno le regole ben precise per poterlo fare, no? Perché manca una norma per sancire la possibilità di riunirsi online, e quindi gli amministratori di condomini adesso sono a caccia anche magari della miglior piattaforma da utilizzare per collegare tutto. Tu pensa poi di super condomini, no? Che hanno decine di centinaia di persone, ma come possono fare? Quindi che suggerimento danno i nostri colleghi? E i nostri colleghi dicono che qui siamo a uno stallo, che se non interviene una norma qualsiasi che definisca le cose, bisognerà attendere ancora un po', come anche per l'ecobonus probabilmente. Se leghiamo le due cose insieme, tanto sarà ben in assemblea che si deciderà anche un eventuale ricorso all'ecobonus per il condominio, ammesso che poi si riveli praticabile. Senti, andiamo a dare un aggiornamento sul BTP Italia. Tu hai già detto che è partita bene anche la seconda giornata, vorrei dei dati più precisi. Benissimo, ma tra l'altro facciamo anche un punto della situazione rispetto alle domande che ci fanno gli ascoltatori, perché non è che non abbiano avuto interesse per questo argomento, tant'è vero che hanno bussato anche allo sportello di Radio di Due di Denari. Sentiamo un po'. Dillo a Due di Denari. Buongiorno, Meazze Rosciani. Guido Brera, quando evoca, come molti politici ciclicamente, il debito privato, il risparmio privato come garanzia per il debito pubblico, indirettamente evoca il fantasma della patrimoniale, l'haircut del risparmio privato per tagliare il debito pubblico. Niente, è un po' come quelli che chiedono: ma perché lo Stato, che può ricorrere al meccanismo di stabilità pagando questo eventuale prestito, questa linea di credito ad un tasso molto vantaggioso, deve comunque collocare ulteriore debito? Sono delle macro domande che i nostri ascoltatori si fanno, e adesso vedremo se il nostro prossimo ospite vuole dare una risposta, ma credo che lui, con la sua competenza molto diversa rispetto a questi argomenti, voglia darci più che altro dei numeri su come sta andando questa mattina. Pietro Poletto, responsabile dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana, sarà un po' il nostro reporter di questi tre giorni. Poletto, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi. Allora, ieri 109.000 contratti, 4 miliardi di euro rastrellati in questa prima giornata di collocamento dal Tesoro italiano. Anche questa seconda giornata mi sembra che si sia aperta secondo buoni auspici. Come stanno andando le adesioni? Direi molto bene, sulla scia della giornata direi ottima di ieri. Oggi, per darvi dei numeri, come chiedevi, ore 11, abbiamo 1 miliardo e 400 milioni con 44.000 contratti, quando alla stessa ora di ieri aveva 1,2 miliardi, per cui è evidente che l'onda lunga del collocamento di ieri sta proseguendo ancora oggi, e speriamo che prosegua anche domani, quando si chiuderà la fase dedicata all'investitore retail, mentre giovedì, esatto, ricordiamo, ci sarà quella dedicata agli investitori istituzionali. Ecco, c'è un aspetto che ci hanno chiesto in diversi, Deborah, continuo a chiedercelo, abbiamo detto, ma forse merita ripeterlo: non ci saranno chiusure anticipate per quanto riguarda il retail, cioè i risparmiatori come me, e i risparmiatori qualsiasi, per così dire? Si andrà avanti anche tutta la giornata di domani, è così, Poletto? È esattamente così, verranno accolte tutte le richieste che ci saranno fino a domani alle 5:30. Esiste una profilazione del contratto tipo che arriva a Poletto, taglio medio, quanto stanno investendo, taglio... oppure ancora troppo presto, ecco, per fare una fotografia di questo tipo? No, sicuramente abbiamo delle statistiche sulla giornata di ieri rispetto all'emissione precedente, dove il taglio medio si è sicuramente abbassato. Stiamo parlando di circa 36.000 euro, quando nell'emissione precedente eravamo oltre 67.000, per cui questo è abbastanza evidente, e la granularità che c'è stata in questa emissione direi interessante, dove c'è una partecipazione diretta dell'investitore retail. Poi è ovvio che la compartecipazione poi di soggetti più importanti come private banking e quant'altro possono ulteriormente andare ad arricchire, vuol dire, il panorama degli investitori, però questa granularità della prima giornata direi un segnale positivo del riscontro che ha avuto presso gli investitori privati. Mm-hmm. C'è, Mauro, tra le nostre email una richiesta di un ascoltatore, adesso non so se Pietro Poletto è in grado di dargli una mano, eventualmente ci riflettiamo appunto a microfoni spenti, ma c'è questo ascoltatore che si chiama Luca e ci scrive da Monaco di Baviera e dice che vorrebbe partecipare all'asta del BTP Italia per tutta una serie di motivi. Lui dice: mi sembra una buona possibilità di investimento, voglio aiutare pure dalla Germania il mio paese, ma lui dice non so a chi rivolgermi perché la mia banca tedesca, quella presso la quale ho il mio conto titoli, non sembra offrire questa possibilità, è una banca online e faccio fatica anche ad ottenere informazioni. E meno male che una volta tanto questi tedeschi non sono i primi della classe in questo mondo. Devo dire che qua il settore dell'home banking, della banca online, generalmente dotato di call center molto professionali che sono in grado di rispondere a tutto. Allora, per questo signore che vive a Monaco, Poletto, che suggerimento possiamo dare? Il suggerimento è comunque di contattare la propria banca e chiedere espressamente chi vuole comprare questo strumento, che comunque è distribuito su Borsa Italiana, e di contattare una delle banche aderenti, broker aderenti ai mercati di borsa, che possono raccogliere l'ordine per conto suo. Certo, perché è come se io chiamassi la mia banca e non mi fa sottoscrivere un Bund tedesco, che mi sembra abbastanza difficile, sono generalmente titoli estremamente liquidi questi, quindi non dovrebbero esserci delle difficoltà in ambito europeo. Assolutamente sì, teniamo conto che ovviamente gli operatori diretti sono un numero relativamente limitato, sono una cinquantina, però ci sono tutti gli operatori che sono indiretti, che sono collegati agli operatori diretti e possono passare gli ordini, per cui non vedo da questo punto di vista un problema di questo tipo. Parliamo appunto di titolo di Stato, per cui chiaramente ben, ben conosciuto e distribuito ovunque. Ecco, non mi sembra inutile, Deborah, ricordare che il ricavato, insomma il sottoscritto per questa emissione del BTP Italia, 16ª emissione, è destinato appunto alla copertura delle esigenze date dall'emergenza coronavirus, quindi insomma è una cosa abbastanza impegnativa e importante in questo momento. Ecco, se posso aggiungere, direi che questa è la prima volta che un titolo di Stato ha consideriamo un BTP di scopo, una destinazione ben chiara e ben definita. Normalmente quando uno sottoscrive i titoli di Stato sono per rifinanziamento generico del debito dello Stato, no? Questo di fatto invece è totalmente dedicato all'emergenza Covid, per cui penso che questo sia anche un segnale importante che ha stimolato anche molti investitori a poter dire che voglio essere parte, al di là dell'investimento finanziario, del rendimento che posso avere, il premio fedeltà raddoppiato, però posso dire che posso indirizzare a un'emergenza che meno male ci ha toccato tutti. Ma tra l'altro c'è da dire, Mauro, guardavo un po' anche su qualche piattaforma dove ci sono commenti di non solo investitori un po' più preparati appunto rispetto a queste operazioni, ma in realtà nonostante tutto quello che vediamo sui mondo social, le contestazioni, l'operato dello Stato, il governo, siamo mai contenti di ieri, devo dire che rispetto a questa operazione il sentimento patriottico mi sembra che stia veramente emergendo. Ho letto considerazioni di questo tipo, nonostante tutti i difetti che ha questo paese, comunque anche sul tema della sanità, anche nelle problematicità emerse in Lombardia, quello che vuoi, comunque viviamo ancora in un paese che ci offre una grande sponda rispetto a questo tipo di assistenza, per cui voglio continuare a sostenerla. Devo dire che c'è anche questo spirito che ha animato l'atteggiamento di molti e molto appunto richiamato anche sui social, come ho avuto modo di leggere in queste ore. Io ho un'ultima... Hai altre domande? Sì, ho un'ultima cosa che volevo chiedere, è una conferma che vorrei chiedere a Pietro Poletto, responsabile dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana, perché molti ascoltatori si chiedono ci sono commissioni che devo pagare per prendere questo BTP Italia, poiché sappiamo che è un tipo di emissione in generale di BTP Italia, in tutte le emissioni, che non prevede commissioni, le chiedevo una conferma, cioè nulla è dovuto, per così dire, alla banca per l'intermediazione per l'acquisto. Non ci sono commissioni di collocamento nella fase appunto che dura dal 18 al 20, questi sono i 3 giorni di collocamento senza commissioni di collocamento per tutti gli investitori privati. E ovviamente il premio fedeltà raddoppiato all'8 per 1000 a scadenza di 5 anni si applica a solo quei soggetti che hanno comprato, sottoscritto il titolo in questi 3 giorni e mantengono il titolo fino a scadenza naturale nel proprio portafoglio titoli. Allora, cara Deborah, mi pare che per oggi abbiamo avuto un bel po' di informazioni e di conferme. Dottor Poletto, noi la distribuiremo ancora domani per avere l'aggiornamento e ulteriori risposte alle domande dei nostri ascoltatori. Molto volentieri, buona giornata e buon lavoro. Grazie. A presto. Deborah, invece per te è il momento delle borse. Viva certo. La fatturazione elettronica. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Ciao, Vincenzo da Palermo, I love my radio. Ciao, sono Riccardo da Genova, I love my radio. Ciao, sono Corrado da Roma, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 71% la ascolta anche da casa. L'ascolto da supporti digitali è aumentato del 24% e per il 59% degli italiani la radio è relax e allegria. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Di denari. Deborah, ti devo dire che questa canzone dei Rolling Stones in questo momento è un po' la mia canzone preferita. Living in a Ghost Town, vivo in una città fantasma. Ne avevo avuto così un po' la sensazione, chissà come mai. Sì, continuo a chiedere a Marco Lombardo per favore di inserire almeno uno stacchetto di questa canzone, perché devo dire che esprime un pochino il sentimento che abbiamo tutti provato durante la fase più stringente, più restrittiva del lockdown, della quarantena, anzi della settantena bisognerebbe dire, perché più o meno tanto è durata la riduzione della nostra possibilità di movimento. Che per... Sì, è un po' come, Mauro, il decreto rilancio che tu hai chiamato decreto ritardo, ieri Sebastiano Barisoni l'ha chiamato il decreto ristoro. Insomma, stiamo dando a queste novità con le quali abbiamo dovuto fare amicizia in questo periodo tutti i nomi che meglio così ci piacciono, come meglio interpretiamo queste circostanze attorno a noi, no? Ognuno ha la sua. Allora, vediamo, andiamo nel tema della giornata, il tema principale, quello appunto del rogito, per così dire, ma riassumiamo in questo un po' tutta l'attività dei notai, che è ovviamente, come tutte le attività economiche e anche come tutte le nostre vite quotidiane, è stata molto rivoluzionata e molto condizionata in queste settimane. Come abbiamo annunciato, è tornato a trovarci, anche se telefonicamente, il consigliere nazionale del notariato e notaio, ovviamente, Giulio Biino. Allora, bentornato a Due di Denari, in primo luogo. Buongiorno a tutti, grazie di avermi rinnovato l'invito, è un piacere essere di nuovo con voi, anche se solo telefonicamente. Deborah, dove vogliamo partire? Qui, ascoltatore spremunt, lo dico in latino perché qualcuno ha messo rogito ergo sum, anche come... Quindi insomma c'è anche una certa inventiva, voglia anche un pochino di scherzare, questo mi sembra un buon segnale. Ottimo. Da dove vuoi allora, partire? Allora cominciamo, intanto gli studi degli oltre 5.100 notai d'Italia non hanno mai chiuso sin dall'avvio dell'emergenza sanitaria appunto da Covid, però loro erano aperti ovviamente con tutte le precauzioni del caso all'interno dei loro studi, ma in realtà avevano ben poca clientela perché per tutti i limiti degli spostamenti chiaramente si sono dovute interrompere molte delle iniziative di carattere ordinario che chiaramente si potevano svolgere all'interno degli studi professionali appunto dei notai. Adesso un pochino siamo in questa fase di allentamento del lockdown, quindi per gli spostamenti ci sono un po' più di possibilità. Quindi la prima domanda, notaio Biino, è su che cosa avete ripreso a lavorare in maniera più intensa rispetto... Esatto, come stanno andando le cose? Diciamo che dal 4 maggio abbiamo ripreso l'attività ordinaria, nel senso che gli studi erano aperti prima, sono aperti oggi, però oggi sono state superate quelle richieste di indifferibilità e di urgenza che invece erano necessarie per stipulare nel momento del lockdown rigido. Nella fase 2 possiamo stipulare tutti gli atti senza più essere legati alla dichiarazione di indifferibilità e urgenza. Chiaramente stiamo cercando di dare la precedenza a quelli che erano stati sospesi o rinviati in precedenza, a quelli che hanno delle scadenze più pressanti, cioè si cerca di dare nei limiti del possibile un ordine cronologico legato alle esigenze della clientela, anche tenendo conto che sì, si riprende l'attività ordinaria, ma con tutte le cautele e nel rigoroso rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie. Signor notaio, ma se uno ha un rogito fuori dalla regione, in questo momento, come sappiamo, per uscire dalla propria regione bisogna munirsi di autodichiarazione, quelle che abbiamo utilizzato in varie versioni, e però solo per i casi appunto di necessità e urgenza, riassumo un po' così alla Carlona, l'ultimo DPCM, quello tra sabato e domenica, di domenica anzi per la precisione. Quindi che si può fare? Possiamo spostarci di regione per rogitare, oppure meglio aspettare giugno? Dunque, con una dichiarazione di urgenza, quindi una sorta di autocertificazione di urgenza, ci si può spostare e noi possiamo stipulare anche con riferimento a clienti che vengono da fuori regione. È chiaro che per quel tipo di rogito magari si possono adottare delle altre modalità, cioè favoriamo il rilascio di procure, in questo mantenendo fermo quello che avevamo già previsto nella fase 1, e cioè una sorta di deroga alla normativa deontologica che prevede che di norma le procure non debbano essere rilasciate a dipendenti dello studio, invece per questa fase consentiamo il rilascio di procure a dipendenti dello studio, proprio per consentire di evitare lo spostamento di regione. Oppure si possono stipulare atti nella forma della scrittura privata autenticata con doppia autentica, quindi un'autentica nella regione dove risiede per esempio il venditore e attraverso la comunicazione tra notai la seconda autentica e quindi la chiusura del rogito nella regione dove risiede l'altro contraente, per esempio nel nostro caso l'acquirente. Quindi diciamo che ci sono anche delle alternative per facilitare quelli che già nella fase 1 abbiamo chiamato atti a mobilità ridotta. E poi evidentemente confidiamo che a breve anche questo tipo di prescrizione e di limitazione venga a cadere, in modo tale che anche gli spostamenti da regione a regione vengano consentiti con più facilità. E ciò che i notai sono fortemente informatizzati, non da oggi, in realtà già dagli anni 90 voi avete una rete unitaria del notariato. E l'utilizzo di email, posta elettronica certificata, eccetera, può in qualche modo sostituirsi agli spostamenti fisici notai in questa fase? Diciamo che per tutta una serie di attività sicuramente sì, quindi ci sono tutta una, c'è la possibilità. Per esempio, partiamo proprio dalla fase prodromica a rogito, soltanto anche per la fase della consulenza. Avremmo previsto con una nostra FAC che tendenzialmente la consulenza avvenga per via telefonica o in videoconferenza, in modo tale da evitare non soltanto lo spostamento, ma anche proprio il contatto all'interno dello studio. Ovviamente anche tutta la trasmissione dei documenti può avvenire in via telematica, quindi con le modalità ordinarie della mail, e quindi diciamo che si può arrivare fino sostanzialmente al momento della stipula senza la necessità di accedere allo studio. L'unico momento in cui questo è necessario è proprio il momento del rogito, anche per tutti gli adempimenti successivi, proprio quella forte informatizzazione cui lei faceva accenno prima, ci consente di arrivare alle vetture catastali, alle trascrizioni dei registri immobiliari e quindi a tutti gli adempimenti successivi alla compravendita, anche oppure i contatti col registro delle imprese per quello che riguarda gli atti societari, tutto in via telematica e quindi senza necessità di ulteriori spostamenti o di contatti con terzi. Ma a parte questo, notaio Bino, comunque per l'ordinarietà, per tutto ciò che è necessario fare in maniera indispensabile appunto nei vostri studi, come avete riorganizzato l'attività? Diciamo che anche qui stiamo progressivamente procedendo verso la normalità, però adottando tutti i criteri e le modalità di adeguamento alle prescrizioni igienico-sanitarie, per cui ci siamo muniti ovviamente di guanti monouso, di gel sanificanti, di mascherine, richiediamo la puntualità in modo tale che si eviti il sovrapporsi magari di clienti in attesa in sala d'aspetto, prescriviamo il rigoroso rispetto della distanza, il famoso metro all'interno dello studio, e anche qui generalmente siamo dotati di sale stipule ragionevolmente ampie, facilmente aerabili, e quindi tranne proprio casi limite, e qui se vogliamo raccontare un aneddoto, ho dovuto stipulare la settimana scorsa un atto in cui una cliente acquistava da un condominio e quindi i venditori erano una dozzina di comproprietari pro quota millesimale di una unità immobiliare che questa mia cliente acquistava. Questo atto era stato procrastinato fin dall'inizio del lockdown, perché combinazione era scadenziato proprio all'inizio del lockdown. A questo punto erano tutti nella necessità di concludere anche per ragioni condominiali e l'ho stipulato in cortile, non avendo la possibilità di accogliere 15 persone o 16 quant'erano nel rispetto della normativa, ho chiesto loro se erano disponibili a rinviarle, mi hanno accennato a tutta una serie di problematiche che rendeva molto difficile il rinvio. A quel punto ho fatto presente che l'avrei stipulato nel cortile del mio studio. È un po' per tutte, come per tutte quelle pratiche successorie che devono essere finalizzate con tanti eredi, no? Capita a volte di vedere uno studio di un notaio particolarmente affollato anche in queste circostanze, quindi forse anche questa è una situazione che può essere risolta in questo modo, notaio? Le divisioni ereditarie hanno un po' questa caratteristica spesso di essere caratterizzate dalla presenza di molte persone. E beh, in quel caso può anche diventare poi il ricordo dell'atto al tempo del coronavirus. Io ho delle foto e penso che farò vedere i miei nipoti, ecco. È un po' mi fa venire in mente un po' il presidente del Consiglio quando ha fatto la conferenza stampa in cortile, anche lui con tutti i giornalisti, sì, ben distanziati, anche lei con tutti le varie parti dell'atto ben distanziate. Vi devo interrompere un istante perché è il momento della informazione sulla viabilità, però vorrei affrontare poi con lei, notaio Bino, il problema del rapporto con gli uffici pubblici, perché alcuni ci scrivono: sì, ma io ho in sospeso una cosa, una giudicazione in asta, e però il tribunale non sa, non c'è, non risponde. Un altro mi dice: e c'è anche mi manca Andrea da Milano, Mauro, se vedi su questo, vero? È proprio lì volevo arrivare, ma ci andiamo, cara Deborah, non essere impaziente. Dopo il traffico. Due di denari. Allora, abbiamo detto, affrontiamo gli aspetti del rapporto con gli uffici pubblici, perché poi alla fine il notaio è pubblico ufficiale, ma deve relazionarsi sempre con gli uffici pubblici, fossero uffici del registro, fossero conservatorie, tribunali e così via. Abbiamo Andrea che ci ha chiamato da Milano, se capisco bene, che ha un problema appunto con un ufficio pubblico. Andrea, buongiorno. Buongiorno, grazie della possibilità. Cercherò di essere sintetico. In buona sostanza io sto cercando di portare a buon fine l'acquisto di un immobile. Sì. Da parte della banca ho già il semaforo verde, da parte del notaio ho già fatto compromesso, da parte del notaio ho un semaforo rosso che dice: no, io sono in attesa della dichiarazione urbanistica, della certificazione urbanistica dell'immobile. Ma a quel punto mi devo fermare perché trovo dal lato del comune la risposta che gli uffici sono chiusi, è impossibile accedere agli archivi e non si sa neanche quando potrà essere possibile. E quindi io vedo il traguardo a un metro, ma sono bloccato. Volevo capire innanzitutto se è necessaria questa dichiarazione, certificazione urbanistica sull'immobile che sto acquistando, o se si può in qualche modo bypassare. E poi volevo capire se voi avete notizie di questi uffici comunali, come stanno lavorando, se le pratiche edilizie vengono portate avanti, se l'accesso agli archivi è possibile. Giriamo, perché veramente sono in grossa difficoltà. Sì, lo capiamo, perché è un po' un punto di... è Milano, giusto? Le chiediamo conferma. È un comune in provincia di Milano. È un comune più piccolo, quindi, ecco, in provincia di Milano. È un comune più piccolo in provincia di Milano, sì. Allora, notaio Bino, cosa possiamo rispondere? Che indicazioni possiamo dare all'ascoltatore? Beh, diciamo che tocchiamo un punto nevralgico e complesso di questa fase di ripresa, perché ovviamente i rapporti con gli uffici pubblici risultano complessi in relazione a tutte le prescrizioni che anche negli uffici pubblici si stanno adottando per adeguarsi. Sinceramente non ho chiarissimo che cosa intenda l'ascoltatore per certificazione urbanistica, perché potrebbe trattarsi del certificato di destinazione urbanistica piuttosto che della ordinaria visura sulla situazione urbanistica dell'immobile. Ma vorrei superare proprio al di là di quello che è il documento che il notaio richiede, quello poi eventualmente possiamo farlo oggetto di una conversazione diversa, ecco. Sì. Io volevo fare un discorso un po' più generale sul rapporto con gli uffici pubblici, che si sta anche qui progressivamente allentando e facilitando, perché tutti gli uffici pubblici si stanno adeguando alle normative e si stanno adoperando per... La Lombardia vive una situazione un po' particolare, proprio perché anche oggi ci sono alcune conservatorie che risultano ancora chiuse. Sono prossime all'apertura. Io ho avuto un'interlocuzione proprio questa mattina col vice direttore generale dell'Agenzia delle Entrate per capire quali fossero loro le problematiche e le potenziali aspettative sulla riapertura. Mi ha garantito. Cosa le ha risposto? Prego? No, appunto, eravamo in ansia per sapere la risposta. Ecco, allora mi ha garantito, dicendomi che potevo tranquillamente darle notizia, che la peggiore delle ipotesi è per una riapertura lunedì della prossima settimana. Sono però ragionevolmente fiduciosi che tutto questo avvenga già tra giovedì e venerdì di questa settimana. Quindi la prospettiva è ragionevolmente rosea. Tutto sta nella chiusura di una trattativa sindacale legata proprio alla possibilità di adottare tutte le misure richieste, termoscanner, misurazione della temperatura e quant'altro. Sono perfettamente consapevoli dell'urgenza che riveste la tematica, va anche ricordato che non sono, adesso l'ascoltatore è di un piccolo paesino in provincia di Milano, soltanto le più importanti, o perlomeno Milano è una conservatoria aperta, sia Milano 1 che Milano 2, è aperta Monza Brianza e mi risulta che sia aperta anche Varese, le altre che sono 5 che risultano attualmente chiuse, come vi dicevo l'Agenzia delle Entrate si sta prodigando per aprirle quanto prima. Diciamo al massimo sì, prego, è garantito un servizio di visura in via telematica, cioè è possibile inviare una mail all'ufficio e chiedendo ovviamente il volume che si richiede di consultare e ottenere una risposta sempre via mail. Allora, intanto ad Andrea di da Milano, anzi dalla provincia di Milano, abbiamo capito, poi invitiamo a scrivere a duedidenari@radio24.it se vuole una precisazione puntuale, perché appunto c'era questa incertezza sul tipo di documento. C'era anche un caso, signor notaio, di chi aspetta per il tribunale, che immagino ha un analogo problema, cioè non si riesce a concludere quanto definito in un'asta fallimentare perché il tribunale non è operativo. A lei cosa risulta da questo punto di vista? Le problematiche sono sostanzialmente le stesse, oltretutto è difficile dare una risposta a valenza generale perché ci si sta muovendo un po' a macchia di leopardo, cioè ogni tribunale sta cercando di adeguarsi e di rendere possibile tutti i servizi nel più breve tempo possibile. Le prescrizioni sono molte, l'accesso al pubblico nei tribunali è estremamente numeroso, sapete perfettamente quali code spesso si formino all'accesso dei tribunali più importanti e quindi le necessità di adeguarsi alle prescrizioni sono più complesse. Anche qui ho avuto alcune interlocuzioni, oltre che con il presidente del Tribunale di Torino, che è il tribunale di mia competenza, insomma, cioè la città in cui lavoro, ma anche provando a fare qualche interlocuzione in giro per l'Italia, so che tutti i tribunali si stanno adoperando per riuscire a fornire tutti i servizi nel più breve tempo possibile, non fosse altro anche quelli delle notifiche, le stesse difficoltà ci sono per le notifiche, code oceaniche con tempi lunghissimi o addirittura chiusure quando sta per arrivare il proprio turno. A tutti va chiesta un po' di pazienza. Purtroppo... Esatto, notaio. Ha detto la parola giusta che ci serve proprio per introdurre la domanda che è testé arrivata al nostro indirizzo di posta, duedidenari@radio24.it, da parte di un'ascoltatrice che si chiama Raffaella. Perché poi, a prescindere dal fatto che gli atti non si riescono a siglare, ci sono delle ricadute a domino interminabili, come quella appunto verso la quale è impattata la nostra ascoltatrice. Il 21 maggio era stata fissata la data della stipula per l'acquisto della mia prima casa e qua sempre su Milano siamo. La parte venditrice però adesso non vuole presentarsi perché dice che non ci siamo accordati sulla data del trasloco, quindi qua c'è intanto un problema che non viene addebitato direttamente a Covid. Il compromesso parla del 31 maggio, ma la parte venditrice vuole andarsene il 30 giugno. Cosa posso fare per tutelarmi? Notaio, lei si deve mettere la casacca del mediatore in questo momento, come suggerirebbe la nostra ascoltatrice di comportarsi, perché se comunque sul compromesso una data c'è, e allora la parte venditrice non ha molto ragione nel chiedere un termine diverso. Diciamo che di nuovo, proprio perché lei mi invitava a indossare la casacca del mediatore è quella che è un po' la casacca che il notaio indossa sempre, anche nelle situazioni ordinarie, quando non abbiamo queste emergenze. Il primo richiamo che il notaio deve fare alle parti è quello di tentare di raggiungere un accordo che si fondi innanzitutto sul buonsenso, cercando di comporre le reciproche esigenze. Abbiamo pur sempre quel famoso articolo 91 di cui abbiamo già parlato, che assimila l'emergenza Covid all'impossibilità sopravvenuta e quindi consente di spostare i termini o di considerare il mancato adempimento di un termine causa di, appunto, legittimo inadempimento perché causato da impossibilità sopravvenuta. È evidente che però, essendo una norma, come dire, di sfogo, una norma, una valvola di sfogo, non è detto che la controparte accetti il richiamo a quella norma e che quindi pretenda l'adempimento nei termini fissati. Tutto questo è evidente che non può essere risolto in termini sicuri se non con un accordo tra le parti. Il resto può purtroppo diventare contenzioso. Tutti sappiamo che normalmente col contenzioso si allungano i termini e anche gli animi si esacerbano sempre di più. Per cui sarebbe opportuno che i due contraenti si incontrassero o virtualmente o di persona, se possono farlo, e tentassero di comporre le loro reciproche esigenze, che purtroppo sicuramente saranno in qualche modo entrambe legittime. Poi i termini sono termini. Però... Però se un termine contrattuale c'è, magari questa persona ha già stipulato il mutuo, magari questo mese parte il mutuo, parte il mese di giugno, quando la persona aveva già la certezza di poter abitare l'abitazione appena comprata, per cui mi sembra che, come dire, adesso così ad occhio la parte acquirente ha un pochino più ragione di quella venditrice, ma così questa è una sensazione senza aver visto nessuna delle carte. Sicuramente sì, però poi come tutti sappiamo le singole situazioni hanno mille sfaccettature e tra l'altro, come lei stessa diceva prima, poi spesso purtroppo capitano queste necessità di adempimento che hanno ricadute a domino, perché su quella compravendita se ne può innestare un'altra ancora, ci sono mutui le cui delivery scadono e anche qui abbiamo dei problemi, perché quando la delivery di mutuo scade potrebbero cambiare le condizioni, quindi è evidente che il mancato rispetto di un termine purtroppo può comportare conseguenze anche imprevedibili. In linea di massima, visto che oggi, come abbiamo detto in apertura, gli studi sono aperti e operano nella ordinarietà, sarebbe opportuno che si cercasse di adempiere ai termini, ecco, non usando l'emergenza quasi come una scusante per poco. Una contro l'altro, ma venendosi incontro. Grazie al notaio Giulio Bino, anche per lei l'abituale richiesta: non lasci il paese, perché avremo ancora bisogno di lei. Debora, io non so se domani sarò qui, perché sai che c'è il fascicolo 7:30 domani in edicola, io, ecco, me lo voglio leggere tutto. Arrivederci. Allora guarda, domani mi affronto io tutti i casi del BTP Italia di nuovo, perché siamo stati travolti di nuovo da tante richieste. A domani.